Thank you.

terra cedra, se pietà non impetra nell'indurato core, almeno il sonno fuggirà il mio cantar gli occhi non ponno. Su dunque a che più tardo tempo è ben d'approdar sull'altra sponda, s'alcun non è chi il nieghi, vaglia l'ardir se foran vani i prieghi. E vago fior del tempo l'occasion che